Quindi magari dico due parole sul che cos'è la rete che oggi è qui presente. La rete Beni Comuni nasce all'incirca un paio d'anni fa, facendo assemblee, bene o male, semestrali, durante le quali abbiamo condiviso, approfondito, sviscerato tutte le problematiche che incontriamo nei nostri spazi nella gestione dei nostri beni comuni. Qui a Mondeggia abbiamo problematiche di gestione agricola, ognuno ha le sue. Però diciamo ci sono, abbiamo individuato sempre problemi di fondo che possono essere condivisi e approfonditi meglio se parliamo tutti insieme. Durante il lockdown, molti di voi lo sapranno, la rete non è stata inattiva, anzi, si sono moltiplicati gli incontri online perché erano più facili, sono partiti molti tavoli di lavoro, di approfondimento di molti aspetti, con il risultato che ora ci possiamo rivedere, abbiamo la possibilità, un'ampia possibilità di scelta su cosa parlare, perché sono state portate avanti riflessioni che vanno dall'ecologia all'urbanistica, agli aspetti giuridici. Quindi la rete si sta dando da fare, però a questo punto si deve dare delle priorità. Nel corso di questi incontri è emerso da tutti i tavoli di lavoro che sono nati e si sono sviluppati la necessità di fare rete con altre reti, cioè i collegamenti con tutte le realtà che esistono in Italia e non solo in Italia e che lavorano praticamente sugli stessi nostri temi, magari ma ad angolazioni diverse. Abbiamo percepito la necessità di conoscerle, aumentare i contatti e cercare di trovare strategie comuni. Questo è il motivo per cui un tavolo di lavoro è stato dedicato appositamente a quella che viene stata definita dal titolo in modo molto generico agricoltura e territorio, ecologia e territorio, cioè trovare connessioni tra la gestione dei beni comuni e le gestioni agricole, capire come il cibo, che è un bene comune, può essere tutelato, difeso e potenziato. Gli altri due tavoli saranno due tavoli che riprendono riflessioni che abbiamo lasciato dall'ultima assemblea che abbiamo fatto in presenza a Milano nei primi mesi dell'anno, e sono i tavoli giuridico, che diciamo è stato chiesto espressamente dalla comunità di Mondeggi, perché non so se lo sapete, ma la Regione Toscana, prima delle elezioni, ha emanato una legge sui beni comuni che può essere un buono spunto per riflettere nuovamente su questo aspetto normativo, sugli aspetti dei regolamenti e tutto quanto. Il terzo tavolo sarà un tavolo che riguarderà gli aspetti economici, quindi sostenibilità dei beni comuni, impatto sociale dei beni comuni, riprendendo appunto le riflessioni di Milano. Durante tutta questi 2 giorni ci saranno incontri che tratteranno anche degli strumenti open source digitali di cui la rete si vuole dotare. Stiamo completando il nostro sito e durante questi momenti cercheremo di approfondire anche questo aspetto. A questo proposito, a questo punto io cerco. A te Barbara. Quindi do la parola a Barbara che farà un focus su questo aspetto. Salve a tutti. Allora, a novembre l'anno scorso, a dicembre l'anno scorso, con l'appuntamento sempre a Milano, abbiamo creato la pagina Facebook della rete e durante il lockdown invece abbiamo deciso di dotarci di un sito web nato principalmente con lo scopo di riunire la documentazione che stiamo producendo e che possiamo mettere a disposizione di tutte le realtà che hanno bisogno di avere, diciamo, informazioni sui beni comuni e sulle attività che stiamo facendo. E il sito ve lo faremo vedere poi in questi 2 appuntamenti, è in costruzione e siamo ospitati attualmente su un server di un'associazione che ci ha messo a disposizione lo spazio, durante i tavoli di lavoro verrà su questo server, abbiamo anche, passo poi la parola a Alessandro, installato Jitsi per gli incontri online che faremo durante i tavoli di lavoro. L'idea che come gruppo di comunicazione abbiamo portato avanti e che vorremmo poi approfondire magari con The Webinar, spostarci da piattaforme proprietarie a piattaforme di software libero per renderci un po' più indipendenti sulla proprietà, diciamo, dei dati che noi produciamo durante i nostri incontri, i nostri lavori. Vi spiego un attimo meglio sul discorso della piattaforma. Sì, infatti io la chiamerei infrastruttura più che piattaforma, proprio perché è una cosa piatta. L'infrastruttura di cui si è dotata la rete in questo momento è provvisoria e, come ha anticipato Barbara, è ospitata su un server privato che non è un server commerciale, è un server su cui sono ospitate altre associazioni no profit. È un server su cui ho lavorato e che ha utilizzato, cioè su cui è stato utilizzato tutto il software libero. Ci tengo a precisarlo perché tante volte si fa un po' di confusione quando si parla di free software, perché la parola in inglese tende ad ingannare, avendo un doppio significato di libero e di gratuito. A noi interessa più che sia libero nei suoi concetti, nelle sue dinamiche, piuttosto che sia gratuito. Vi evito tutta la parte dei nomignoli, dei server, dei prodotti che sono stati utilizzati, ma abbiamo in questo momento il sito WordPress e il sito web di Petrina, con alle spalle un sistema di posta elettronica che permette di gestire mailing list e un piccolo spazio su cui archivare i documenti, che in questo momento è vuoto e che vorremmo proporre alla rete di utilizzare. Sì, poi c'è, penso che l'ha detto tutto, e rimane solo sì, Jitsi, che in questo dovremmo provare con i tavoli di oggi. Abbiamo installato un server Jitsi di nostra gestione, tramite il quale tutta la rete potenzialmente può fare le proprie conferenze, oltre magari agli strumenti che già di solito usa. Non ho altro da dire sulla parte tecnica. Passo a parlare a Francesco. Però io adesso mi approprio di questo microfono perché dovrei facilitare quello che viene. Allora, questa plenaria iniziale era stata pensata un po' nelle riunioni organizzative della rete, perché, voi sa, come diceva Roberto, questa rete nasce soprattutto come piattaforma di scambio tra diverse realtà su strumenti che possono essere utili a spazi autogestiti, ma anche altri tipi di realtà che si basano sull'autogestione diretta e aperta di risorse. Però, naturalmente, poi, soprattutto con la fase in cui ci troviamo, è emersa un po' la necessità da parte della rete di capire come concepirci sul livello nazionale, quindi come essere, oltre che una rete di realtà, eventualmente una forma di soggettività, o comunque come porci semplicemente rispetto a dei temi che chiaramente stanno attraversando il dibattito sul livello nazionale. E noi abbiamo pensato qui di affrontare questo tema soprattutto a partire dalle alleanze con altre reti. Questo perché è un po' nella natura dei beni comuni quella di essere attraversati e attraversabili dalle più diverse istanze, ovviamente nel rispetto dei principi dell'antifascismo, antirazzismo e antisessismo. Quindi io chiamerò a intervenire nell'ordine, così vi iniziate a preparare, Jason, Nardi, che è là, ok, per il Forum Sociale Mondiale delle Economie Trasformative. Poi interverrà Gianino Marco Bersani per la convergenza sul manifesto per uscire dalla società del profitto e la società della cura. E successivamente Gianino Clandestino sui temi del cibo e dell'agroecologia e sulla sostenibilità economica dei beni comuni, Martina Locascio di Fuorimercato. Ricordo un paio di informazioni pratiche. Aiutatemi se dimentico qualcosa. Sono molte informazioni pratiche da dare, quindi se dimentico aiutatemi. Allora, per chi vuole intervenire dal vivo, abbiamo predisposto qua un microfono, c'è un cello, fanno come questo, ce n'è un altro là. Sì, sarà cambiato il cello, fanno ogni intervento, e c'è un disinfettante vicino per ovviamente prima e dopo aver toccato il microfono poterlo utilizzare. Chi ci sta sentendo? Ok. Allora, noi abbiamo predisposto all'entrata, come diciamo richiede la normativa, una raccolta di contatti e nomi per sapere chiaramente chi ci sta in questo luogo per poterci reciprocamente avvisare. Se per caso dovesse essere sfuggito qualcuno o qualcuna, Gabriella farà passare il foglio dove appunto stiamo raccogliendo i contatti. Gabriella, lei. Il foglio è questo, questa è la cosa importante. Non passo io, passo al blocco insieme alla penna. Chi è che non si è segnato, facciamo prima il giro interno, poi quelli esterni, ok? Se qualcuno non si è segnato, se per favore lo fa. Questa è anche la penna, Sempre con adeguato disinfettamento prima. Invece, per chi ci sta seguendo in diretta da Radio Wombat, ma anche da Meetcop, noi abbiamo predisposto un pad per segnarsi a intervenire subito dopo che apriremo la discussione, dopo gli interventi che ho menzionato prima. Quindi, sia da Radio Wombat, il link al pad lo trovate nell'evento Facebook di questa assemblea, sulla pagina della Rete Nazionale dei Beni Comuni Emergenti e Uso Civico. Per chi sta su Meetcop, credo che l'abbiano messo nella chat, o lo metteranno, però comunque stesso discorso sta sull'evento Facebook della rete. Quindi, diciamo, in questo modo dovremmo provare a includere tutti e tutte, nonostante, diciamo, un po' le difficoltà del momento. Detto questo, allora do la parola a Jason, che sì, ti devi avvicinare a questo microfono qui. Prima di lasciare la parola a Jason, volevo dire una cosa brevissima, probabilmente inutile, però la devo dire. Siamo tutti insieme, siamo tutti felici, però non possiamo ricordare, scordare, come ha detto Gabriella, che comunque siamo usciti o stiamo uscendo da un periodo particolare. Quindi in questi giorni io vi pregherei, oggi siamo fortunati, c'è il sole, possiamo stare all'aperto. Vi pregherei a tutti di avere di essere bravi a percepire le sensibilità che ognuno di noi ha nei confronti di questa situazione, per quanto riguarda abbracci, baci, vicinanza, lontananza, mascherina o no. Quindi ecco, questo è un invito che probabilmente è superfluo, però mi sembrava giusto dirlo. Jason. Numero non lo so. Prova. Grazie Roberto. Ciao, buongiorno a tutti. Io sono Jason. Per chi non mi conosce, sono fiorentino. Faccio parte di una miriade di organizzazioni, ma qui direi del Forum Civism Firenze Bene Comune e della Rete Italiana di Economia Solidale. Questo spazio parlerò in particolare del Forum Sociale Mondiale delle Economie Trasformative, che è un forum internazionale che ha cominciato ad organizzarsi ormai 4 anni fa e che avrebbe dovuto celebrarsi a Barcellona il giugno scorso, come forum tematico specifico sull'economia. E le alternative all'economia di mercato, ma parte del Forum Sociale Mondiale. Chi conosce o non conosce il Forum Sociale Mondiale? Chi non conosce? Chi non conosce? Okay, giusto per sapere se devo dire due parole, due. Il Forum Sociale Mondiale è un'iniziativa di incontro tra movimenti sociali, organizzazioni non governative, società civile a livello internazionale che è cominciata nel 2001 a Porto Alegre in contrapposizione al Forum Economico Mondiale dove si incontrano i vertici dei gruppi finanziari e multinazionali e diciamo, si mettono d'accordo sulle strategie e sullo sviluppo della finanza globale. E quindi il Forum Sociale Mondiale vuole essere uno spazio dove invece la società civile che vuole un altro mondo possibile, questo è lo slogan, si ritrova e cerca di fare strategia insieme, di lottare insieme, ma anche di creare quest'altro mondo possibile a partire dalle pratiche che si stanno facendo. Il Forum Sociale Mondiale delle Economie Trasformative è nato su un incontro tra a Montreal nel 2016, mettendo insieme da Via Campesina, e quindi l'organizzazione dei piccoli produttori che li mette insieme a livello internazionale, a World Fair Trade Organization, l'organizzazione del commercio equo, anche lì a livello internazionale, a Ripesche, è una rete che mette insieme le reti che si occupano di promuovere l'economia sociale e solidale, e così via, per dire proviamo a pensare insieme come contrapporci da una parte all'economia di mercato, ma dall'altra creare insieme, rendere visibile l'incredibile varietà di iniziative che esistono e potenziarle, dargli più forza. L'anno scorso, mi sembra a novembre, in preparazione del Forum di Barcellona, c'è stato un incontro in Italia per creare una sorta di convergenza italiana che partecipasse con le diverse organizzazioni. In particolare nelle economie trasformative si sono convocate sia quelle un pochino più tradizionali, se vogliamo, quindi l'economia cooperativa, le varie forme, dal turismo responsabile alla finanza etica, al commercio equo, all'economia solidale in generale, però si è guardato anche agli altri movimenti che si stanno muovendo e che si sono manifestati negli ultimi anni. Per esempio il movimento delle transizioni, Transition Towns, e varie forme di re-economy che lo seguono, oppure tutto il movimento agroecologico, anche questo è cresciuto moltissimo negli ultimi anni e mette insieme dagli ecovillaggi a chi si occupa di permacultura, a appunto le diverse forme di ritorno all'uso della terra in maniera sostenibile. E poi i beni comuni. I beni comuni sono un modo che esiste da tanto tempo, se si può rintracciare e riportare indietro, ma le nuove modalità di intendere come fare bene comune sono emerse forse più fortemente negli ultimi 10 anni e quindi stanno diventando in se stesse un movimento. Lo vediamo dall'emergere appunto di reti che se ne occupano in Francia, soprattutto europee per ora, però si stanno sviluppando anche in altri paesi. E poi c'è tutto l'ambito dell'economia femminista e antipatriarcale. Anche quella sta in qualche modo risorgendo e portando un nuovo contributo, e la contaminazione reciproca è molto importante in questo caso. Dico ultime due parole. Nell'organizzazione, nella preparazione per Barcellona, che poi c'è stata ma online, con una partecipazione più ridotta a quella che ci si aspettava dell'evento fisico, però hanno partecipato più di 2000 persone, 400 organizzazioni e reti da un centinaio di paesi, questo attraverso 150 attività online in una settimana, che visto le condizioni non è male. A ottobre ci sarà un secondo momento di una durata più lunga, un mese, per dare la possibilità di partecipare in maniera più tranquilla e magari su questo vi possiamo mandare per email, insomma, chi si è segnato, un po' più di informazioni. Però per dirvi quali erano i tavoli che sono emersi a novembre e che hanno in qualche modo, alcuno di più e qualcuno di meno, lavorato nei mesi scorsi, sono 5. Il primo filone riguardava le economie trasformative, cioè le economie che vogliono che fare un cambio radicale del sistema, del paradigma della crescita, dell'estrattivismo, eccetera, che ci sono oggi. Quindi appunto il primo tavolo era su estrattivismo e crisi climatica. Il secondo tavolo, e mi sembra Paolo tu partecipassi a quello, il secondo tavolo era su economie trasformative, produzione, consumi, tecnologie e industria. Il terzo su economie trasformative, democrazia economica e trappola del debito. Il quarto, economia trasformativa e pianificazione territoriale e beni comuni, quindi quello ci riguarda più da vicino. E il quinto era su economia trasformativa e patriarcato, modelli sociali e culturali, quindi il cambiamento dell'immaginario collettivo, eccetera. Questi tavoli hanno lavorato abbastanza bene fino a luglio, e poi c'è stata un po' un'interruzione. Nel frattempo sono partiti altri percorsi. Marco Bersani parlerà di un altro percorso che incrocia molti di questi temi, per cui ora dovremo ragionare un attimo su come non andare in parallelo, ma di nuovo far convergere le convergenze e approfittare di questi momenti di incontro internazionale per lavorare meglio a livello locale e a livello nazionale, ma anche per incrociarsi con chi sta lavorando similmente in altri paesi. Grazie mille. Tra l'altro poi noi avevamo anche iniziato, soprattutto con il tavolo economico, anche un percorso di autoanalisi su quali sono gli elementi trasformativi delle nostre economie. Credo che poi ci torneremo nel tavolo economico. Allora, adesso dovrebbe intervenire Marco Bersani, che non interverrà da MeetCoop, mi dicono, Alessandro. Bisognava informarlo. Ok, allora intanto facciamo intervenire prima Andrea e nel frattempo informo Marco Bersani che dovrà intervenire per radio. Andrea Gelfi di Genuino Clandestino. Buongiorno a tutte e tutti. Si sente? Si sente? Sì, no, molto, molto brevemente, questi sono anche poi temi che sicuramente avranno uno spazio adeguato di discussione questo pomeriggio, no? Nel workshop dedicato alle tematiche dell'ecologia. Siamo in un posto, Mondeggi, che sin dall'inizio, ormai 6 anni fa, coniuga in modo molto stretto la tematica dei beni comuni alla tematica dell'agroecologia e più nello specifico il tema dell'agroecologia contadina. L'esperienza nostra, come io faccio parte del nodo fiorentino di Genuino Clandestino, è un'esperienza che mette al centro della tematica della transizione ecologica la questione del cibo, la questione della terra e la questione dell'agricoltura. Quindi di fondo c'è l'idea che non può darsi transizione ecologica senza agroecologia contadina e senza quelle comunità del cibo che si organizzano attorno alla filiera del cibo. Genuino Clandestino funziona a partire da un rapporto stretto tra produttori e coproduttori. Questi temi sono stati temi centrali durante il lockdown. Abbiamo visto appunto le lunghe file ai supermercati e la chiusura di molti mercati contadini, direi di tutti i mercati contadini. E a partire da questo è nato un nuovo percorso che per ora ha una scala regionale, che è il coordinamento delle comunità contadine toscane, e semplicemente abbiamo cominciato a fare assemblea con tanti contadini e tante contadine che anche eccedono l'appartenenza a Genuino Clandestino. Abbiamo scritto un documento, abbiamo avuto l'idea di metterlo su change.org, e questo è un documento molto elementare, però la nostra rivoluzione è una rivoluzione anche elementare della quotidianità, ed è un documento che mette assieme una serie di rivendicazioni immediate, una serie di rivendicazioni invece di strategiche, di lungo periodo. Quelle più immediate sono: se succede un altro lockdown, preferiremo, se i supermercati sono aperti, anche i mercati contadini, con tutte le attenzioni ovviamente, devono essere aperti, favorire la nascita di nuovi mercati, non pagare il suolo pubblico e tutta una serie, ma questa cosa poi la trovate su change.org, anzi vi invito a firmare. Abbiamo raggiunto in maniera del tutto inaspettata 50.000 firme, questo ci ha dato forza per andare in giro in tutta la Toscana e fare assemblee con contadini e coproduttori in tanti territori diversi, a Grosseto, a Livorno, a Pisa, a Pistoia, eccetera eccetera. Quindi questo è un percorso in costruzione che riguarda le reti contadine in primis e il rapporto con i coproduttori, ma è evidente che tutti mangiamo e che la questione della terra è una questione assolutamente centrale, quindi ci fa molto piacere che dentro la rete dei beni comuni emergenti o in altri esperimenti di convergenza in questa fase politica ci sia un'attenzione alla questione del cibo, dell'agricoltura e più in generale alla questione della rigenerazione socio-ecologica. Questo discorso sul diritto contadino, in Italia i contadini sono, cioè non esiste la figura del contadino, si è o braccianti o imprenditori agricoli professionali da un punto di vista normativo, ci fa anche riflettere a partire ad esempio dello sforzo che ha fatto la rete dei beni comuni emergenti a pensare, certo, prima le pratiche, ma poi anche l'elemento del diritto. Ecco, su questo elemento del diritto anche noi stiamo ragionando molto, quindi sicuramente porteremo i nostri temi dentro questa discussione, ma abbiamo tanto da imparare, perché c'è bisogno di un diritto del commoning, del fare comune, ma c'è anche bisogno di un diritto delle forme di vita contadine, di un diritto dell'agroecologia. E quindi ci interessa capire come questa articolazione tra pratiche rigenerative, costruzione di infrastrutture autonome alternative, si possa incrociare anche con la costruzione di un diritto del comune e di un diritto contadino. Grazie, no, Bersani, sì, interviene da remoto. Allora, adesso lo chiamiamo. Sì, grazie. Diciamo solo due percorsi, siccome il tempo è tiranno, andrò più per affermazioni e per, diciamo, molto, molto sintetico. Come sapete, ieri è stato lanciato pubblicamente il manifesto che abbiamo intitolato Uscire dall'economia del profitto, costruire la società della sera, un manifesto valoriale, quindi che indica alcuni elementi di un'alternativa di società e soprattutto lo strumento che si è dato un percorso di convergenza tra decine e decine di realtà, alcune sono presenti all'assemblea che state facendo, per costruire un percorso di convergenza finalizzato a che cosa? Diciamo che il percorso nasce da alcune veloci riflessioni. La prima è che la pandemia non è una parentesi, ma è un segnale della totale insostenibilità dell'attuale sistema economico, sociale. La seconda è che per la pandemia insegna che serve una svolta radicale, ma perché ciò avvenga serve un salto di qualità dei movimenti sociali e delle lotte. E qual è questo salto di qualità? A nostro avviso è quello di iniziare a inserire ogni lotta, ogni pratica, ogni esperienza, tutte prese singolarmente come situazioni radicali, però vanno inserite, e questo ci sembra un momento, dentro un orizzonte generale di affermazione della società. Cioè, l'insufficienza che, diciamo, finora tutte le esperienze realmente hanno avuto è quella di essere assolutamente talmente radicali in un'intera che è il ma implica la riappropriazione contro la protezione privata, contro la protezione privata, contro la giustizia giornalistica sociale, contro la adesso non ho il canale, ok. Intanto che mettiamo a posto questo ulteriore problema tecnico, interviene Martina per Fuori Mercato, che vedremo intervenire anche poi nei tavoli, che ha questo un po' difficile compito di parlarci un po' della sostenibilità economica dei beni comuni. Hai visto, devo dire, mi sentite? sì, appunto, io proverò soltanto a dare qualche spunto proprio perché il tema è complesso, però è un tema rilevante che è importante affrontare insieme, appunto quello della sostenibilità economica dei beni comuni. Provo a dare qualche spunto partendo dal, sicuramente dall'esperienza della mia piccola organizzazione di Fuori Mercato, che in qualche modo appunto sin dall'inizio ha ragionato sull'economia della lavoratrice e dei lavoratori in autogestione, partendo dall'opportunità di essere qui a Mondeggi e quindi dall'opportunità che questo luogo ci offre anche su questo aspetto, quindi dal tema dell'agricoltura contadina e appunto il legame con l'economia contadina, e tenendo conto degli spunti a cui hanno fatto riferimento sia Roberto che Maria Francesca che Andrea, degli spunti che sono venuti già, che sono posti, le proposte che ci sono dai tavoli di lavoro, in particolare il tavolo di ecologia politica e il tavolo economico, che già appunto ha delle tracce di lavoro sulle possibilità di scambio concreto, di pratiche concrete dal punto di vista economico tra le diverse realtà. E appunto tenendo conto che è un tema che dobbiamo, è tutto aperto ed è, va all'interno della rete dei beni comuni, sviluppato insieme a partire continuando oggi un po' ad aprire, a continuare questo confronto. Sicuramente l'esperienza di Fuori Mercato mi aiuta a semplificare, proprio perché sin dall'inizio noi ci siamo posti l'obiettivo di creare una rete economica e sociale sostenibile e creare dei collegamenti tra realtà economiche e non solo, e creare anche dei posti di lavoro in autogestione. Quindi diciamo il dubbio amletico sull'opportunità o meno di fare reddito e in che modo l'abbiamo sciolto in maniera anche pratica e con tanti limiti, appunto l'abbiamo avuto come obiettivo sin dall'inizio, poi tutt'altra storia è come ci siamo riusciti, è il percorso e i processi che hanno portato alla realizzare il raggiungimento di alcuni obiettivi. Nell'avere questo obiettivo, quindi nella costruzione di una rete economica che partisse anche da un concetto di autogestione che riguarda tutta la filiera a cui faceva riferimento Andrea, e quindi dall'autogestione sia dal punto di vista della produzione, della distribuzione e anche del legame appunto con tutti gli altri soggetti a cui facciamo riferimento. È inevitabile da questo punto di vista, quando si parla di economia in autogestione, per noi parlare di cibo. Lo è stato sin dall'inizio, sia perché siamo partiti dalla messa in comune delle nostre competenze, e alcune delle realtà che fanno parte di Fuori Mercato sono delle realtà contadine, delle realtà agricole, ma soprattutto perché avendo l'obiettivo di tenere insieme l'aspetto della risposta in qualche modo ai bisogni immediati e allo stesso tempo alla costruzione di alternative, non potevamo che partire dal cibo e dalla riflessione e dalla costruzione pratica di alternative e dalla costruzione di infrastrutture che fossero legate al tema e alla concretezza del cibo, anche perché appunto i movimenti contadini, non soltanto via Campesina ma in particolare via Campesina, ci insegnano che per parlare di autodeterminazione territoriale bisogna partire appunto dalla riflessione, dalla pratica del come e per chi produciamo. Tutto questo in che modo può interessare la rete beni comuni? Appunto dicevo, lo dobbiamo capirlo insieme, però sicuramente a maggior ragione in questi ultimi mesi l'esigenza di tornare o l'esigenza di mettere al centro con forza l'esigenza di parlare di reddito, di lavoro, di economia è data dalla condizione che stiamo attraversando e vivendo tutti, quindi dalla crisi sanitaria, economica e sociale. E quindi in questa fase abbiamo visto insieme, anche con numerosi incontri che abbiamo organizzato insieme, sia l'immediatezza dell'interdipendenza dei vari elementi, ma anche l'esigenza di costruire strumenti concreti di mutualismo e di mutuo aiuto. Da questo punto di vista veniva in mente, un po' riflettendo sulla possibile intervento di oggi, una delle domande che ci facevamo durante le riunioni organizzative: come permettere la continuità dei lavori sia dei tavoli che della rete, proprio perché appunto ci sono dei momenti di accelerazione, i momenti in cui è più evidente l'utilità anche del confronto e dell'approfondimento, e allo stesso tempo incontriamo spesso le difficoltà che hanno a che fare con le nostre realtà quotidiane, con le nostre vite quotidiane e individuali. E a maggior ragione, parlando di continuità o di sostenibilità della rete dei beni comuni, secondo me è ancora più necessario parlare di economia in autogestione, quindi di mettere al centro l'aspetto economico del reddito, proprio perché è strettamente legato alle possibilità, alla sostenibilità, alla continuità anche di una rete, di un insieme di realtà che provano e costruiscono insieme. E allo stesso tempo penso che la rete Beni Comuni dà un'opportunità, crea un contesto raro che permette l'incontro di realtà che normalmente, non per pregiudizi, ma nella realtà è difficile che si incontrano, almeno negli ultimi mesi, dal punto di vista anche dell'incontro dei ragionamenti per quanto riguarda l'agricologia, le pratiche agroecologiche. Il contesto della rete Beni Comuni è stato un contesto molto importante per far incontrare, per far parlare delle difficoltà e per mettere in luce anche da questo punto di vista le opportunità concrete dal punto di vista organizzativo ed economico. In questa fase abbiamo visto come la grande distribuzione organizzata e le grandi aziende sono state favorite, abbiamo visto crescere i profitti degli attori dominanti del mercato, ma allo stesso tempo abbiamo visto anche che le esperienze avevano già accumulato un sapere organizzativo, non soltanto sono state da punto di riferimento per la risoluzione di difficoltà concrete e immediate che ci siamo ritrovati ad affrontare per la prima volta, l'accesso al proprio terreno, l'accesso ai mercati, e quindi sono stati da punto di riferimento e hanno tenuto botta meglio di tante altre realtà, hanno colmato anche delle falle del sistema in questi mesi, quindi c'è questo doppio livello. E nel contesto delle beni comuni ci sono stati dei momenti di confronto utili da questo punto di vista, anche con dei risvolti pratici. Il confronto su come effettivamente trovare degli strumenti, inventare degli strumenti per collettivi, per raggiungere gli obiettivi, per continuare a frequentare i mercati o rivendicare la propria capacità di autogestire i mercati, è stato qualcosa di importante che tiene insieme il livello di riflessione e un risvolto pratico. Tutto questo, secondo me, dice anche un po' qualcosa sulle possibili convergenze che già ci sono, che è possibile immaginare o che sempre in questo contesto delle beni comuni può in qualche modo favorire. Le convergenze tra tutto il mondo della solidarietà attiva, che un po' si è emblematicamente incontrata nell'azione della spesa solidale, e il mondo dell'agricoltura contadina. In alcuni casi questo incontro è avvenuto, in altri forse appunto va favorito questo incontro. O l'incontro tra le rivendicazioni generali sul reddito incondizionato e l'accesso al cibo sano e di qualità. Sono dei temi, dei piani che in qualche modo si toccano e che si sono incontrati nel contesto della rete Beni Comuni e hanno appunto un risvolto concreto che ha a che fare con l'accessibilità e la possibilità per tutte e tutti. E allo stesso tempo credo che una convergenza importante tra questi mondi che riflettono sulla economia in autogestione e sull'agricoltura contadina necessitano appunto del contributo e del sapere sviluppato all'interno della rete Beni Comuni sul come rivendicare il ruolo sociale. Sì, sul ruolo sociale appunto dell'economia in autogestione e dell'agricoltura contadina. Quindi appunto, dal punto di vista delle convergenze, queste secondo noi sono le possibilità da sviluppare, e ci faceva piacere anche fare riferimento alla proposta come esempio di lavoro che è stata lanciata da Campi Aperti, che è uno strumento che è una proposta di lavoro sulle rivendicazioni politiche che tiene insieme tutti questi aspetti ed offre anche la possibilità di mettere a frutto l'esperienza della rete Beni Comuni sul fare diritto e sul rivendicare il proprio ruolo da questo punto di vista. Poi sono tutti temi che sicuramente approfondiremo anche nei tavoli, in particolare ovviamente nel tavolo economico. Adesso riproviamo a collegarci con Marco Bersani, che è il personaggio più atteso della giornata. l'abbiamo atteso in senso tecnico. Proviamo, ciao a tutte e tutti. Io vi presento in un paio di minuti il percorso che è nato durante il lockdown, durante la pandemia, promosso da oramai sono decine e decine di associazioni, esperienze, vertenze, comitati, che ieri ha pubblicamente lanciato per le adesioni individuali e collettive, quindi anche con un invito a tutte e tutti ad aderire, il manifesto Uscire dall'economia del profitto, costruire la società della cura. da cosa nasce questo percorso di convergenza? Nasce da alcune riflessioni. La prima è che la pandemia non è una parentesi, ma è un segnale della totale insostenibilità dell'attuale modello, dell'attuale sistema economico, sociale ed ecologico. E la seconda è che serve quindi una svolta radicale. Ma che perché ciò avvenga occorre anche, a nostro avviso, un salto di qualità di tutte le esperienze, le pratiche, le lotte messe in campo dai movimenti. Cos'è questo salto di qualità? Secondo noi è un po' il passare da lotte difensive a diciamo lotte offensive, offensive nel senso che si cerca di inserire qualsiasi lotta, qualsiasi esperienza dentro un orizzonte di alternativa di società, perché finora quello che è mancato nel nostro paese in particolare non sono le lotte, non sono le pratiche alternative, non sono le persone in campo, che sono tantissime, ma proprio l'idea che ciascuna lotta, tra virgolette, specifica finora è sempre stata molto sapiente e molto radicale, ma quasi mai ha inserito il proprio percorso dentro un orizzonte di alternativa di società. Alternativa che abbiamo provato a chiamare società della cura. Perché società della cura? Ci sarebbe moltissimo da dire, lo dico in estrema sintesi, perché la società della cura implica la vita come relazione sociale, come relazione naturale. La società della cura implica la riappropriazione del comune contro l'appropriazione privata dei beni e della ricchezza collettiva, implica la giustizia climatica e sociale, soprattutto implica il noi solidale e cooperante contro la solitudine competitiva, che è l'orizzonte che ci viene offerto da questo sistema. Il percorso di convergenza, ovviamente, è un percorso come tutti i percorsi, diciamo, complicato, perché mette insieme differenze anche grandi, esperienze molto diverse fra loro, però è un percorso promettente. E i prossimi passi che si è dato sono quelli di intanto costruire una piattaforma di rivendicazioni prioritarie. Quando si dice costruire non si intende qualcosa fatto a tavolino o inventato ad hoc, ma si chiede a tutte le esperienze che sono in campo, e quindi anche a questa esperienza collettiva vostra, di provare a indicare quali sono, dal punto di osservazione di ciascuno, le priorità che andrebbero messe in campo per intraprendere una svolta radicale che abbandoni l'economia del profitto e vada verso invece la società della cura. Questa piattaforma rivendicativa verrà poi discussa in una prima assemblea in presenza, con anche la possibilità di collegamento a distanza per permettere a tutti di partecipare, che si terrà a metà ottobre, e l'idea è quella di promuovere a novembre, data e anche modalità ovviamente ancora da definire, una prima manifestazione nazionale, proprio perché novembre è un mese decisivo, perché a novembre verranno presentati i progetti per richiedere i fondi europei, quelli del Recovery Fund, e sempre a novembre verrà presentata la legge di bilancio, e cioè è il momento in cui nel decidere la destinazione delle risorse ci sarà ovviamente una conflittualità fra governo, poteri forti, lobby finanziarie che già ora spingono per l'appropriazione di tutte queste risorse dietro lo slogan del rilancio dell'economia, che noi sappiamo che in realtà è l'econo loro, e vorremmo invece mettere in campo una società ampia che dice che, essendo la pandemia non una parentesi, ma un segnale gigantesco dell'insostenibilità di questo modello, noi siamo tutte e tutti insieme in piazza per dirvi quali sono le rivendicazioni importanti e dove devono essere destinate queste risorse per intraprendere un cambiamento più generale. Io Il vostro percorso come si può inserire dentro questa convergenza? Beh, intanto alcune realtà che sono dentro il vostro percorso hanno partecipato attivamente a questo percorso di convergenza. Quindi, ma in generale io credo che proprio l'attenzione alla questione della riappropriazione dei beni comuni e dell'emersione del comune da una parte contro il privato e dall'altra ben oltre il pubblico, ragionando quindi più sull'autogoverno che non semplicemente su un'idea di pubblico che deve garantire, credo che sia un contributo importante proprio per costruire praticamente dentro le città, dentro i territori, dentro le comunità locali associate, un ragionamento di società alternativa, di società della cura. Un'ultima cosa, vi rubo altri 2 minuti per invece dirvi un altro percorso, questo diciamo promosso più specificamente dalla mia associazione, cioè Attacchi Italia, che però si innesta fisiologicamente dentro questo ragionamento della società della cura. È un percorso che noi abbiamo chiamato Riprendiamoci il Comune, si rivolge esattamente alle città, ai territori, alle comunità locali associate, anche qui con un obiettivo, l'obiettivo quello di superare le vertenze singole a livello territoriale per provare a fare un ragionamento sistemico sul comune, sulle comunità locali, sulle comunità territoriali. È un percorso che abbiamo chiamato Riprendiamoci il Comune e che l'idea nostra è da gennaio, quindi diciamo con l'inizio del nuovo anno, propone 2 leggi di iniziativa popolare. Uno sulla riforma della finanza dei comuni, l'altro sulla socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti. Ve lo dico con 2 slogan per non rubarvi troppo tempo. Sulla finanza locale e dei comuni, noi vogliamo sovvertire l'attuale principio del patto di stabilità e del pareggio di bilancio che fa diventare diritti, beni comuni delle variabili dipendenti dai profitti, sostituendolo con il pareggio di bilancio ecologico, il pareggio di bilancio sociale, il pareggio di bilancio di genere. Cioè vogliamo dare ai comuni una nuova funzione pubblica e sociale che vada in direzione del superamento delle diseguaglianze sociali, di un'impronta ecologica devastante e delle discriminazioni di genere e non solo. L'altra proposta di legge di iniziativa popolare, che è la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti, ve la dico proprio in termini brevissimi. Cassa Depositi e Prestiti raccoglie il risparmio postale di 20 milioni di cittadini, dispone attualmente di 265 miliardi. Noi chiediamo che quel risparmio che è privato, ma che può essere utilizzato per fini generali, che quei soldi vengano messi a disposizione a tassi di interesse molto bassi per gli enti locali, proprio per mettere in campo comune per comune, territorio per territorio, comunità locale per comunità locale, un nuovo modello sociale, ecologico, che superi le discriminazioni di genere, finanziando quindi tutti gli investimenti degli enti locali che devono essere decisi con la partecipazione degli abitanti del territorio e che vadano in quella direzione. Anche qui credo che la vostra esperienza diciamo, di ragionamento forte sui beni comuni e sulla territorialità, credo che si innesti fisiologicamente dentro il ragionamento del Riprendiamoci il Comune. Avremo altre occasioni per approfondire, intanto io credo di aver assolto il mio compito di presentarvi quello che è in campo sia a livello diciamo, nazionale come percorso di convergenza, sia invece come obiettivi territoriali che riguarderanno la campagna Riprendiamoci il Comune. Grazie di avermi ascoltato, anche se è un po' frustrante non solo non essere lì, ma addirittura neppure vedervi, ma ci saranno altre occasioni. Intanto un abbraccio virtuale a tutte e tutti. Grazie. Intanto ringrazio chi è intervenuto. Io, diciamo, a partire un po' da questi spunti, aprirei un po' la discussione. Chiaramente sappiamo bene che non potremo mai esaurire tutti gli spunti e gli argomenti che ci sono stati lanciati, però sappiamo bene anche che, diciamo, anche nell'ottica di partire dalle pratiche, sono stati lanciati degli appuntamenti, degli altri ne potremo lanciare, quindi credo concentrerei un po' la discussione su come possiamo proseguire questi percorsi, come possiamo interagire con questi percorsi. Allora, abbiamo chiaramente una doppia modalità di intervento. Dal vivo alzate la mano e mi dite il nome. Invece, per chi ci sta seguendo da Radio Wombat o con qualsiasi altro tipo di diretta a questo punto, visto che l'audio di Meetcop non riusciamo a prenderlo, funziona? Perfetto. Allora, quindi chi vuole intervenire si iscrive da remoto, si iscrive sul pad che abbiamo messo il pad degli interventi sempre sull'evento Facebook di questo evento, sulla pagina della Rete Nazionale dei Beni Comuni Emergenti a Uso Civico. E però chi deve intervenire, chi vuole intervenire dalla radio, abbiamo bisogno che ci desse il vostro numero di telefono in modo che possiamo chiamarvi così come abbiamo fatto con Marco. Davide. Davide Bialghini, Rete Italiana di Economia Solidale Ecoenergia. Volevo semplicemente preannunciare il programma del gruppo di lavoro Ecologia e Territorio, proposta che verrà fatta appunto oggi, che coordinerò. Allora, i temi che verranno proposti sotto forma di domande generatrici, rispettando poi tempi ed accordi di base sugli spazi dedicati ad ognuno, sono 1. Valorizzare il metodo che abbiamo praticato, ma non solo noi, ma anche altri tavoli, di unire la formazione interna alla tessitura di relazioni unitarie con altre realtà. Abbiamo coorganizzato due webinar, uno cibo e agricoltura, in cui è stato preannunciato il documento sulla sovranità alimentare rilasciato da Campi Aperti, Arvai e Camilla, che potrà confrontarsi appunto con quello che è stato già preannunciato dal Comitato delle Comunità Contadine Toscane. Quindi questo sarà il primo tema che verrà proposto. Quindi in questo caso appunto il campo di riferimento anche per gli interventi che verranno richiesti è quello dell'agricoltura contadina, dell'agroecologia contadina, è stato già detto, versus appunto le multinazionali del cibo e della grande distribuzione organizzata. E mi piace questo richiamo che è stato fatto di cercare di inserire, no, le pratiche che verranno proposte all'interno di una cornice di trasformazione complessiva della società. Mi sembra che questo sforzo possa essere fatto almeno sul piano, diciamo, dell'analisi, poi vediamo se questo possa avvenire anche sul piano delle pratiche. Poi abbiamo come seconda area tematica quella proposta dal secondo webinar, la riconquista delle brevi distanze, in cui sono stati affrontati i temi appunto di riorganizzazione urbana del territorio, che hanno suggerito e verrà appunto discusso all'interno del tavolo la unificazione di questo nostro tavolo con il tavolo urbanistica, quindi mettendo insieme ecologia, agricoltura e territorio. E questo sarà, diciamo, un tema su cui anche misurare la praticabilità della unificazione di questi due tavoli. Poi ci saranno alcuni temi trasversali che verranno richiamati, la territorializzazione delle nostre pratiche, delle risorse, sia contadine che urbanistiche, in una logica sistemica e relazionale. E poi c'è questo tema importante che è stato già proposto anche da Martina, trovare metodi per connettere i temi di comune interesse, quindi verificare come può avvenire all'interno di rete beni comuni, mantenendo se possibile l'autonomia dei singoli tavoli, però cercando appunto di trovare sul piano metodologico come far sì che ci siano connessioni, contaminazioni, relazioni tra tra i singoli tavoli. E poi il tema che ha proposto in particolare Roberto Checcucci, cioè cosa fare, quali priorità dare alle attività di Rete Beni Comuni con l'obiettivo di mantenere Rete Beni Comuni come luogo di confronto per proseguire il nostro percorso. Questo è quanto. Grazie. Allora, c'è qualcuno che si sta... Carlo... che si sta prenotando sul pad. Non so se intanto vuole... Ok. Carlo Alberto... Graziani. Ma ci sta seguendo da radio? Non lo so. O da Meetcop? Se intanto ci sono altri interventi, così lo facciamo finire di scrivere, altrimenti aspettiamo e riflettiamo. Prego, si avvicina qua. Alla... Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Laura Manganaro e faccio parte di un comitato fiorentino, il comitato per la tutela dell'ex manifattura tabacchi, ormai da 9 anni. Però diciamo in questo momento è più importante spendere l'appartenenza alla rete dei comitati per la difesa del territorio, che ha una valenza appunto regionale. Mi riallaccio a una delle ultime cose che ha detto Marco Bersani, perché in un certo senso intercetta una proposta che ci è stata presentata in quanto rete dei comitati proprio pochi giorni fa. Relativamente alla possibilità di intercettare almeno in parte i fondi destinati dal Recovery Fund. In pratica, qual è stata la proposta? Sul modello di una serie di associazioni molto, diciamo, organizzate che operano in Emilia-Romagna, hanno presentato al presidente della regione una proposta per aprire un tavolo di discussione con tutta una serie di proposte calate su singoli argomenti, economia circolare, ecologia, ciclo di rifiuti, per poter attraverso diciamo questo tavolo condizionare in senso favorevole a queste associazioni e dirottare ovviamente una parte di questi contributi. La proposta ci è stata fatta perché la rete dei comitati non si mette in gioco e non prepara una lettera a Gianni facendo una proposta sullo stampo appunto più o meno con questa finalità, mettendo in campo le energie, le proposte, le iniziative che appartengono ai comitati che fanno parte della rete. Ma a questo punto mi viene da dire, ma perché non estendere questo tavolo a tutte queste realtà feconde che sono rappresentate da voi e da altre persone relativamente appunto ai beni comuni, a un'economia circolare? Ecco, quindi diciamo la mia idea o comunque la mia proposta nell'immediato sulla tempistica delle cose, delle iniziative da intraprendere, si rivolge proprio a questo. Mettiamoci insieme, se diciamo l'idea vi può piacere, per poter accedere a questo tavolo direttamente, quindi nel mese di ottobre, mandare questa lettera a Gianni e vedere in concreto quanta disponibilità all'interno della nuova regione toscana troviamo. Grazie. Grazie. Allora, intanto Carlo Alberto Graziani, se vuole intervenire, ci dovrebbe indicare anche il numero di telefono sul pad, perché non abbiamo ancora connesso l'audio di Meetcop. Dobbiamo fare un cambio, questo non funziona bene. Quindi... Ah, ok, questo è tanto pulito questo. Non so se ci sono intanto altri interventi. Aspetta che ti impacchettiamo il microfono. Però no, devi andare là perché purtroppo... No, ci arriva? Okay. Brava. Ciao a tutte, tutto e tutti, sono Livia e niente, molti, insomma, ci conosciamo già per tante cose già fatte insieme. Non ho nessuna competenza sull'agroeconomia ecologica, però diciamo che volevo dire alcune brevi cose perché sono state nominate tante questioni che insomma toccano varie cose di cui mi sono occupata da circa, non so, 15-20 anni, e quindi comunque diciamo volevo semplicemente chiarire alcuni aspetti e lanciare anche a altre questioni che potremmo mettere all'ordine del giorno. E niente, siccome più volte veniva nominata la questione di genere, la questione antipatriarcale, le alleanze, volevo semplicemente insomma condividere alcune brevi cose. Il patriarcato è qualcosa che è molto più antico del capitalismo, dura da 1000 anni, il capitalismo da alcuni secoli, e quindi porsi in termini antipatriarcali è in sé già una scelta, diciamo, parecchio radicale. E, diciamo che dentro a quelle che vengono nominate a livello locale, a livello amministrativo, le politiche di genere, ci sono tante cose di cui tante situazioni, soggettività transfemministe qui non sono pienamente d'accordo. Si parla infatti di pink washing, e quindi diciamo che vanno fatte delle scelte anche di tipo politico e teorico per affrontare alcuni temi, e diciamo che è molto necessario insieme trovare delle pratiche inedite, perché diciamo che non ci sono dei libretti di istruzione o delle ricette magiche per cui il patriarcato si annulla. Mi piace molto, visto che molti interventi su tanti temi parlavano di convergenze, di alleanze, che insomma, nominato un'altra parola che in ambito femminista viene molto usata ormai da anni, che si chiama intersezionalità. Cosa vuol dire l'intersezionalità delle lotte? È già di per sé un'alleanza, ovvero vuol dire che io posso lottare per l'ecologia insieme che lotto per il femminismo, insieme che lotto per la trasformazione politica o democratica dello stare assieme. E quindi insomma l'intersezionalità è qualcosa di abbastanza fondante ormai, e che crea anche delle differenze fra un certo tipo di intendere il femminismo o altro. E poi l'altra cosa su cui volevo mettere insomma così un attimo un focus di riflessione è che non esiste il femminismo, ma esistono i femminismi, si declinano in tanti modi diversi, e questo porta anche ricchezza alla discussione. Però diciamo il femminismo prima di tutto si pone la questione del potere, e quindi mette in gioco quelle che sono delle metodologie e cerca di elaborare un discorso e delle pratiche in questo senso qua. Quindi siccome vedo che c'è tanto, viene molto nominata anche da tanti uomini, mi sembrava importante ricordare che ci sono insomma un sacco di lotte aperte internazionali e nazionali, e quindi diciamo ci sono già tante lotte che riuniscono tante questioni che vengono discusse in questi due giorni. Per esempio ne cito una, come ne potrei citare mille: le donne mapuche fanno una lotta per la terra che già è ecologica, già è intersezionale, già in qualche modo parla della terra, bene comune, e nasce come lotta femminista. Quindi diciamo esistono già tantissime realtà che appartengono a tante tematiche che vengono discusse qua. Grazie mille. Allora adesso credo che riusciamo a far intervenire Carlo Alberto per telefono. Lo stiamo un attimo chiamando perché ci ha dato il numero. Vabbè, mi scuso di certi problemi che mi sono posti. All'inizio posso parlare? Posso parlare? Pronto? Dunque, qualche problema di collegamento, ma ho sentito, penso, le cose più importanti e non c'è dubbio, come è stato detto, che in questo periodo emerga. Sì. Emerga la questione dei beni comuni in tutta la sua complessità, mi ritorno però comunque tutta la sua complessità, dalla salute alla scuola, al lavoro, al cibo, ma a cui io aggiungerei anche le relazioni interpersonali. A questo punto mi è piaciuto molto quello che ha detto Marco Bersani, dove contro la solitudine dell'io deve emergere il noi. Questo è un profilo di particolare interesse. E comunque questa assemblea è espressione di questa complessità di cui viene dal basso i beni emergenti, con tutta la loro storia, anche se la rete è di recente istituzione, la storia dei beni emergenti ormai dal Teatro Valle all'ex Vivo Filangieri ha una sua, un profilo ormai lontano. Io partecipo qui in rappresentanza del Comitato Rotità e porto il saluto del Comitato, anch'esso di istituzione recente, di 2 anni, ma che nasce sulla base di esperienze ormai ultradecennali. E qui però voglio esprimere soprattutto un'esigenza di unitarietà. Mi è piaciuto quello che ha detto Roberto le varie reti, la necessità di avere una strategia comune. Io parlo di questione dei beni comuni, perché è necessario che questa questione venga posta al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, diciamo della società civile e della società politica, della politica, delle istituzioni. Ora, secondo me uno strumento fondamentale, a parte l'impegno che viene dal basso, che è particolarmente importante e che è necessario, condizione necessaria, ma uno strumento fondamentale è certamente quello dell'approvazione della legge che introduce della legge nazionale, della legge dello Stato, a parte delle leggi regionali, ma prima ancora della legge nazionale, perché è la sola che può introdurre dei principi nel nostro ordinamento giuridico, che riconosca formalmente i beni comuni. Senza questo riconoscimento è a rischio la nostra esperienza, l'esperienza anche delle regolamenti comunali e in qualche modo anche delle leggi regionali. Vi sono proposte di legge che giacciono nelle commissioni parlamentare e con parlamentari competenti. È necessario che oggi si avvii il processo, l'iter parlamentare. Esiste oggi anche un intergruppo parlamentare che può essere uno strumento fondamentale. Sulla proposta di legge, quella proposta da Rotità, c'è stata una divisione. Sono state divisioni formali più che sostanziali. Io sono sempre stato convinto che sull'idea di fondo ci fosse una profonda unità nel variegato movimento dei beni comuni. E oggi questa assemblea ha la conferma di questa unità da raggiungere quantomeno. Ma c'è quello che mi sembra molto importante, una dichiarazione degli ultimi giorni, del 18 settembre, una dichiarazione congiunta di Paolo Maddalena e Ugo Mattei. Il titolo è significativo, Costituzione e bene comune. Ma si riconosce, questa è la cosa importante, che la raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare ha provocato una spaccatura del movimento per il mancato riferimento al concetto di proprietà collettiva del popolo. Perciò io aggiungo, nell'esperienza che negli ultimi 10 anni che separano il testo approvato dalla Commissione della Coppia delle Firme, non si è dato il riconoscimento di questa esperienza. E ormai si è sviluppato, io credo, che una realtà che deve essere riconosciuta. Io vi leggo 2 passi significativi di questa dichiarazione. Tutti noi oggi riconosciamo che la titolarità dei beni comuni appartiene direttamente al popolo, intesa come comunità, e quindi anche comprensiva delle generazioni future ed è perciò direttamente fondata sull'articolo 1 della Costituzione. È il popolo, attraverso il processo democratico, inteso nel senso più ampio, a riconoscere quali siano i beni comuni e dunque a collocarli anche culturalmente fuori mercato, informandone il governo ad una logica della cura e delle bisogna. Grazie Carlo, non intendevamo tagliarti in modo brusco, però semplicemente invitarti a concludere in tempi brevi. Devi mettere d'accordo con loro. Cioè funziona? Quindi chi vuole intervenire da Meetcoop, forse funzionerà, possiamo provarci. Dovrebbe funzionare però, quindi dovremmo aver attivato anche l'ingresso audio da Meetcoop. Intanto voleva intervenire Dario dal vivo. Ok, un attimo solo. Interviene Dario dal vivo. Angelo? Ruggero. Ok, grazie mille. Ah, vi ricordo interventi, se possiamo tenerci nei 3 minuti, così riusciamo insomma anche a pranzare nella giornata di oggi. Ciao a tutte, tutti e tutto. E sono Dario dello spazio di Mutuo Soccorso Remake di Milano. E volevo un po', diciamo, condividere alcune riflessioni a partire dal percorso di questi mesi, anche un po' sia l'interesse che troviamo nel continuare a costruire la rete dei beni comuni, anche la necessità che vediamo e quindi i punti che abbiamo un po' individuato di, come dire, sia di contributo che di interesse, ecco, da questa 2 giorni. Noi, diciamo, da un paio di anni nel nostro percorso che è iniziato in realtà nel 2013 abbiamo iniziato a partecipare alla rete dei beni comuni perché stiamo recuperando a Milano un ex liceo abbandonato in un quartiere popolare di Milano Abruzzano e fin da subito e anche fin da dei momenti precedenti individuavamo nel, come dire, nel non riprodurre semplicemente il recupero di uno spazio in una maniera canonica, classica, come c'è sempre stata nella nostra città, ma nel provare a costruire un luogo aperto, non esclusivo e quindi trovando un po' negli strumenti e nelle esperienze della rete dei beni comuni e nelle esperienze che gli hanno dato vita, negli strumenti interessanti, abbiamo avviato un percorso e, diciamo, l'aver potuto avere occasioni di confronto e anche di ospitalità dell'incontro precedente della rete ci ha aiutato moltissimo nel avanzare sia nel formarci rispetto a degli strumenti giuridici di cui non eravamo diciamo ancora dotati, ma anche imparare da esperienze diciamo più lunghe delle nostre, del come si può tenere insieme delle pratiche di autogoverno, di autogestione e una produzione autonoma di nuovi strumenti giuridici. È una cosa che diciamo a noi ha aperto un mondo e pensiamo che sia un tema fondamentale che rimane della rete e soprattutto, diciamo, nell'ultimo periodo volevamo un po' riportare questo come anche elemento di dibattito che ci potrebbe essere, cioè che nel nostro percorso di questi ultimi mesi, che ha visto la messa, diciamo, a valorizzazione per l'amministrazione comunale di Milano dello spazio di Remake come di altri 25 spazi ritenuti in disuso, quindi abbandonati secondo l'amministrazione, con la possibilità di presentare delle manifestazioni di interesse per valorizzare questi spazi, la possibilità di far parte della rete dei beni comuni, di interfacciarci con chi ha modo di, come dire, di condividere delle competenze giuridiche rispetto alla partecipazione a questi momenti, per noi è stato fondamentale. Il mercoledì 30 si concluderà questo avviso pubblico, noi parteciperemo con una manifestazione di interesse e la rete dei beni comuni è stata fondamentale per noi per partecipare, sia per un contributo diretto, sia per poter aver avuto accesso a degli strumenti negli altri accordi, patti di collaborazione per preparare uno strumento adatto e pensiamo che un po' il valore enorme della rete sia molto questo, no? Cioè essere di riferimento per esperienze anche molto diverse che però hanno una necessità anche di vertenzialità con le amministrazioni pubbliche, con le istituzioni e che possono dare degli strumenti di forza in più giuridici ma anche di connessione. In questo, diciamo, a Milano si è aperto attorno a questa fase, diciamo, dopo il lockdown, diciamo, la scelta dell'amministrazione sia di diciamo, mettere a bando, tra virgolette, anche se non è un bando ancora, alcuni spazi, quindi Remake e la Cascina Torchiera, che è uno spazio storico che esiste da 30 anni a Milano, La minaccia di sgombero, un altro spazio occupato in Lambretta, si è aperto un percorso cittadino in cui c'è un interesse rispetto al tema dei beni comuni. Non è sicuramente l'unica pratica, l'unica prospettiva, ma pensiamo che riportare anche da questo incontro strumenti in più e diciamo presentare anche la rete dei beni comuni come un riferimento che può aiutare diciamo in generale questo tipo di situazioni in difficoltà, pensiamo possa avere un valore molto importante. Dall'altro, diciamo, rispetto anche ad altre cose che verranno discusse, il tema degli scambi mutualistici, delle esperienze mutualistiche che in tanti beni comuni si sono svolti, per noi è molto importante. Durante la quarantena, diciamo, sia a Milano nelle attività milanesi di remake e di altri spazi, in particolare abbiamo attivato dei progetti dal nome Non sei sola, non sei solo, su vari temi sociali di risposta ai bisogni, che pensiamo possano essere un contributo su cui confrontarci anche con altre esperienze, diciamo tra campagne e città, su esperienze di mutualismo e solidarietà nell'emergenza, e anche un'esperienza che ci ha visto collaborare anche con diverse realtà della rete, che è la Cassa Nazionale di Solidarietà. Pensiamo che sul tema economico e in generale degli scambi mutualistici ci possa essere un confronto che prova a fare dei piccoli passi in più rispetto agli ultimi incontri, quindi a capire come nelle diverse esperienze territoriali che facciamo, ma anche quelle nazionali, come può essere la Cassa Nazionale, in cui hanno partecipato in tanti, ci possano essere, diciamo, anche qui degli strumenti pratici, ma anche giuridici, che possiamo sviluppare insieme, che diano maggior forza e maggior concretezza anche ad alcune cose che ci proponiamo. Quindi vi ringrazio e buon incontro a tutti e a tutti. È tutto. Ciao a tutte e a tutti. La mia storia politica è stata molto diversa dalle tematiche che oggi qui si affrontano, le tematiche dei beni comuni, alle quali io sono tangente perché mi sono occupato di cose diverse, però con questa idea della convergenza anche della iniziativa di ATTAC, mi sembra necessario veramente presentare un tema che purtroppo è trascurato in Italia, perché non è così dappertutto. Cosa c'è di più maschilista e patriarcale della bomba atomica? Io lo dico perché la bomba atomica, con gli sviluppi attuali, implica il concetto di distruzione della società civile come noi la conosciamo. E pochi, purtroppo, quasi nessuno in Italia, sa che il rischio di una guerra nucleare è il più alto nei 75 anni che sono passati da Hiroshima. Noi siamo sotto un rischio enorme che può scattare anche involontariamente, per errore, per un'interpretazione diversa, non solo per esplicita volontà, può scattare da un momento all'altro. Allora, ad esempio, io sono andato in tante scuole l'anno scorso, nessuno sa che in Italia abbiamo 40 bombe nucleari. Il governo non ci informa, in Germania tutti lo sanno perché è stato sui giornali. Allora, io credo che un obiettivo prioritario, fra gli altri, sia la richiesta che il governo firmi il trattato di proibizione delle armi nucleari che sta per entrare in vigore. Non posso dilungarmi, chi vuole ne possiamo parlare a parte, ma un secondo aspetto rapidissimo che posso solo accennare è la rilevanza che mi permetto di osservare, che non vedo molto presente in tutti gli obiettivi, i rapporti fra i paesi ricchi e i paesi poveri. Noi viviamo di un benessere, anche se calante, che è derivato da secoli di sfruttamento delle ricchezze e degli stermini dei paesi poveri. In America Latina si è sviluppato il concetto di colonialità, al di là del colonialismo, che implica anche tutti i temi che si stanno affrontando, i temi del rapporto maschio-femmina, cioè della supremazia che parte parte dalla caccia alle streghe del Medioevo, perché le cose vengono da lontano. Le donne sono state, per il loro sapere e la loro rilevanza, perseguitate e messe a rogo addirittura. Ecco, questo concetto di colonialità che permea tutte le nostre concezioni, e noi l'abbiamo ancora, perché il nostro benessere si basa sullo sfruttamento tutt'oggi delle ricchezze di paesi poveri. Noi abbiamo, verso l'Africa, avremo un debito di centinaia di miliardi, lo vogliamo mettere in conto? Non possiamo fare finta che non ci sia, cancellarlo. Anche questo, secondo me, deve essere un punto prioritario che deve essere messo all'attenzione di tutti e al centro degli obiettivi. Grazie. Grazie. Dopo abbiamo Ruggero. Abbiamo gli ultimi tre interventi. Se... È già pronto. Quindi vabbè, no, abbiamo, tra dieci, se tutti diciamo sono nei tempi, ci restano 10 minuti e poi andiamo a mangiare. Tanto poi comunque torneremo a discutere dei temi un po' nei tavoli, nella plenaria conclusiva. Eccomi, ciao a tutte e a tutti, io sono Ruggero, vengo da Venezia, dove da poco abbiamo concluso un'esperienza molto importante, straordinaria da qualche punto di vista, che è stata quella del Venice Climate Camp. Già di per sé il fatto di essere riusciti a fare un campeggio in cui parlare di cambiamenti climatici, in cui parlare di decolonizzazione, di società della cura, di anche nuove forme dello stare insieme, nuove forme energetiche, parlare di transfemminismo, insomma i temi che abbiamo toccato sono stati davvero tantissimi nei vari momenti seminariali che abbiamo avuto. È stato importante per noi perché siamo riusciti a farlo nonostante il Covid. Abbiamo trovato il modo di stare tutte e tutti insieme a Marghera, in sicurezza, rispettando anche quelle che sono le misure necessarie. Siamo partiti da questo per creare 4 giorni in cui non solo discutere dei temi che vi ho citato, anche in realtà di molti altri, ma anche per effettuare delle pratiche insieme. Abbiamo pensato che sia fondamentale unire la teoria e la pratica nella propria quotidianità, nel proprio stare insieme, e quindi abbiamo avuto attenzione particolare, ad esempio, per tutto l'aspetto che ha riguardato la preparazione dei cibi, per cui la piccola distribuzione, una dieta vegana. Abbiamo deciso di porre particolare attenzione anche alla raccolta dei rifiuti che abbiamo effettuato all'interno del camp. Insomma, ci siamo strumentati per rendere pratico quello che diciamo. Non solo, per noi le pratiche sono state anche una forma di agire contro quelli che noi crediamo siano in qualche modo i nemici di questo mondo, i nemici dei beni comuni, i nemici dei nostri territori, coloro che devastano, saccheggiano i nostri territori, coloro che distruggono le nostre vite, coloro che distruggono il nostro ambiente. E quindi abbiamo deciso di fare un'iniziativa tutte e tutti insieme e siamo andati a bloccare per qualche ora l'inceneritore che vorrebbero ampliare nei pressi di Marghera, così come qualche giorno dopo siamo andati a bloccare per mezza giornata la bioraffineria di Eni, sempre a Porto Marghera. Sono stati due momenti importantissimi, proprio perché abbiamo applicato quello che diciamo e siamo riusciti a renderlo pratico, tangibile, in tante e tanti. Allora, da questo Climate Camp è nato qualcosa di davvero importante per noi. Abbiamo cercato di unire quelle che sono le vertenze che molti Fridays for Future, molti giovani, giovanissimi, hanno portato nelle piazze in questi ultimi 2 anni, anno e mezzo, a quelle che sono le esperienze da cui noi stessi veniamo. Io porto la maglietta del Comitato Non Grandi Navi, per cui esperienza di comitati, esperienza di lotte per i beni comuni che noi abbiamo attraversato in tutti questi anni. Abbiamo unito queste due esperienze perché crediamo che entrambe abbiano dei portati fondamentali che devono andare insieme, che devono correre paralleli, grazie, che devono andare insieme perché non sono conflittuali fra loro, ma possono dialogare, devono dialogare. Il tema dell'intersezionalità delle lotte è fondamentale e deve collocarsi in questo. Sono contento che si parli di convergenze, sono contento che si parli di alleanze, perché abbiamo dei grandissimi nemici, perché la nostra terra è in pericolo, perché stanno distruggendo le nostre vite, ed è giunto il momento non solo di avviare delle pratiche quotidiane che sono fondamentali, che noi abbiamo voluto sperimentare, ma è arrivato anche il momento di andare all'attacco, come diceva qualcuno prima. È verissimo, non possiamo più fermarci in difesa, non possiamo più agire solo localmente. È arrivato il momento di cercare di essere tante e tanti e agire a livello locale, nazionale, anche europeo. Alcuni di noi oggi sono a Ende Gelände in Germania a fermare una centrale a carbone che devasta buona parte del territorio tedesco. Noi abbiamo fatto un appello che è uscito qualche giorno fa, la creazione di una campagna che guarda al nazionale ma che guarda anche a tutta l'Europa, si chiama Rise Up for Climate Justice. Noi crediamo moltissimo in questa campagna perché crediamo che nei prossimi mesi ci siano degli appuntamenti fondamentali. Crediamo che il 9 ottobre sia una data importante, è la data che Fridays for Future ha lanciato in difesa del nostro pianeta. Crediamo che la data che è stata lanciata dalle compagne e i compagni di Massa Carrara durante il nostro Venice Climate Camp, qui a pochi chilometri da qua, per la questione delle cave, sia un appuntamento fondamentale. Crediamo che a maggio ci sarà la riunione dei vertici di ENI, che voglio dire ha tutta una serie di responsabilità fondamentali. Allora noi vogliamo aggredire queste tematiche, noi pensiamo che sia giunto il momento di metterci in campo, mettere in campo i nostri corpi, mettere in campo le nostre teorie, e crediamo che sia importantissimo farlo tutto e tutti insieme, perché il nostro mondo sta affondando e allora noi dobbiamo assolutamente alzarci. Grazie. Adesso interviene Francesco. Dopo ovviamente il cambio di cellophane. Sempre l'invito a tenersi nei 3 minuti, anche perché... Anche meno. Allora, io ci tenevo ad intervenire pure perché forse per molti è la prima volta che ci incontriamo. Io sono Francesco e vengo da Casoria, un comune nell'area nord di Napoli. Vi porto la nostra esperienza. Noi siamo un collettivo che 5 anni fa ha occupato un'ex base militare che era diventata del comune e che il comune utilizzava come sito di stoccaggio di rifiuti. Noi l'abbiamo occupata e insomma abbiamo fatto un bene comune. Noi ci definiamo così non tanto perché siamo un parco che ora è fruibile a tutta la cittadinanza, ma perché noi fin da subito abbiamo provato ad essere un presidio di giustizia sia sociale che ambientale, e quindi tutti i temi che sono stati posti in questa assemblea e che in generale pone la rete, noi ci siamo tantissimo. Soprattutto un tema sul quale noi ci siamo spesi tanti in questi 5 anni di occupazione è quello della costruzione di una comunità che sia una comunità basata sullo scambio, sul mutuo aiuto, che abbia degli anticorpi rispetto alla prevaricazione, rispetto al sessismo e a tutti gli elementi che possono invece non permettere la creazione di una comunità che permetta l'autodeterminazione delle sue componenti. Rispetto a questa cosa qua, insomma, io volevo fare giusto una suggestione rispetto a quello che è stato il post lockdown, perché credo e insomma almeno il nostro spazio ha vissuto questa cosa, che nel post pandemia, nel post quarantena, insomma, si è uscito fuori un po' il vero valore dei beni comuni, la vera potenzialità che questi spazi hanno, perché mentre si stentava ancora a riprendere in un paese che non dava risposte, le istituzioni che non sapevano bene come prenderla, i nostri spazi, anche dalla banale mettersi a distribuire le spese solidali a tante altre attività che hanno messo in campo, sono diventati un po' cioè si sono mostrati per intero nel loro valore, e quindi attraverso i nostri spazi anche molte persone si sono ricominciate a prendere un po' dei piccoli pezzi della loro vita che invece il lockdown aveva messo in discussione. Per cui, per farla breve, sull'appello che si faceva all'inizio rispetto al provare ad indicare un po' quali sono dovrebbero essere le nostre priorità, nei tavoli a me piacerebbe parlare prima di tutto se viene un secondo lockdown, i nostri spazi come reagiscono. E attraverso la nostra rete logistica o insomma anche virtuale, come rispondiamo a delle fasi di emergenza che già insomma quella appena avvenuta ci ha dimostrato che noi abbiamo una marcia avanti rispetto all'organizzazione, poi anche quella statale, diciamo. E poi proprio per passare dalle pratiche al diritto, un'altra cosa che si diceva all'inizio, noi da occupanti attualmente di questo spazio penso abbiamo due necessità. La prima è quella di una legge nazionale sui beni comuni, anche qualcun altro lo diceva, perché la nostra da 5 anni è una guerra continua con le istituzioni, che tra l'altro per conformazione geopolitica del nostro territorio ogni anno e mezzo cambiano, ogni anno e mezzo cade l'amministrazione, ci sta un commissario prefettizio e noi ricominciamo da capo. Per cui a noi ci servirebbe una legge quadro, nonostante siamo vicinissimi a Napoli, che ha diciamo una regolamentazione anche abbastanza avanzata in merito, insomma noi partiamo realmente da zero. Questa cosa qua, considerato che il nostro è un parco, noi fin dall'inizio parliamo di diritto all'alimentazione, infatti anche noi stiamo all'interno della rete di fuorimercato. Un'altra cosa che usciva forte dalle riunioni post quarantena dal gruppo di contadini che frequenta il nostro spazio è una legge sull'agricoltura contadina, perché come si diceva prima non è riconosciuto il ruolo del contadino in questo stato. Quindi diciamo queste tre priorità, diciamo, di ragionamento mi darei: una più organizzativa rispetto alla possibilità di nuove situazioni emergenziali, e altre due più di discussione rispetto ai diritti che possiamo rivendicare. Grazie. Grazie mille. Poi capiamo come introdurre queste cose nei tavoli. Chiamo a intervenire Tommaso. Mentre facciamo la procedura del cello, fanno ricordo, non ce ne sarebbe bisogno, ma insomma è bene ripeterci che la rete dei beni comuni non è legata a nessun partito in particolare. Fortunatamente la campagna elettorale è finita, quindi la cosa ci mette meno in difficoltà, però chiaramente ci fa molto piacere relazionarci con qualsiasi tipo di soggettività eterogenea. Grazie, tra l'altro io non sono mai stato iscritto a nessun partito. Chi mi conosce sa bene che vengo da un'esperienza nei beni comuni oltre che ventennale, insomma dal Forum Sociale Mondiale, Movimento dei Beni Comuni, Movimenti per l'Acqua, e l'esperienza a cui ti riferisci è il fatto che negli ultimi 5 anni sono stato un consigliere regionale, ma di uno strano movimento ibrido che abbiamo messo insieme e che proprio ha cercato di tradurre alcune delle esperienze che tanti di noi avevano fatto in questi anni all'interno proprio dei movimenti e dei comitati e delle lotte territoriali sui beni comuni e sull'ambiente. È evidente che, diciamo così, in questa parentesi di 5 anni soprattutto ho cercato di lavorare alla definizione di strumenti giuridici a difesa del commoning più che dei beni comuni. Lo dico in sintesi, ma penso che per semplicità, più che definire i beni comuni, materiali, immateriali, naturali, e tutta la discussione magnifica che c'è stata, credo sia importante soprattutto ragionare dell'attività di chi cura i beni comuni o di chi li attiva, di chi produce beni comuni, cioè l'attività di condivisione. E l'attività di condivisione, quindi il commoning, cioè il cuore alla fine dei beni comuni, per semplificare, è stata sempre ostacolata dalle istituzioni. Questo è il punto di fondo. Noi abbiamo avuto istituzioni che nel corso del tempo hanno semplicemente impedito all'attività di commoning di svilupparsi, e tutti ai diversi livelli abbiamo avuto questa esperienza nel corso del tempo. Al contrario, l'economia standard, l'economia di profitto tradizionale è stata in mille modi aiutata e sovvenzionata anche attraverso aiuti diretti, e si sta parlando di miliardi di euro. Quindi non solo strumenti giuridici, invenzioni come il public private partnership, ma anche attraverso aiuti diretti. Il punto è che non si è mai voluto aiutare, non si è mai voluto cercare di dare una mano in nessuna forma all'altro lato, cioè quelle dell'economia trasformativa, quelle appunto del commoning. Quindi, per farla breve, Il tentativo poi in questi anni ha partorito una norma che è stata una norma a metà fra quella che avevamo proposto noi e quella che veniva dalla maggioranza, una norma, proprio una norma quadro sui beni comuni regionali. Il tentativo nostro era di fare molto di più, era per esempio intervenire sul tema del diritto d'uso e diritto d'accesso, non soltanto delle terre, e lì ci aiuta anche una normativa nazionale, ma anche per esempio dei beni immobili, pensiamo a Mondeggi, inutilizzati e abbandonati. C'è il grande tema delle proprietà assenteiste, che contrasta anche con uno degli articoli della nostra Costituzione, il degrado di tanti spazi che dovrebbero essere recuperati e restituiti a comunità di persone che si auto-organizzano, si autogovernano. Diciamo, siamo riusciti soltanto in parte a far questo, con la norma che esiste, però il senso che avevamo provato a dare era proprio questo, cioè andare in difesa delle esperienze come Mondeggi e tante altre che ci sono, per fortuna, in giro alla nostra regione e altrove, che vanno tutelate e non vanno colpite. Un piccolo passo avanti, ma molto resta da fare. Chiudo semplicemente dicendo questo, che adesso noi abbiamo un problema gigantesco ed è quello dell'uso anche dei 15 miliardi, circa 20, che arriveranno in Regione Toscana, ma altrettanto arriveranno diffusi nel territorio nazionale del Recovery Fund, che cioè non saranno usati nella direzione che tutti noi abbiamo in mente, ma esattamente in quella opposta. Cioè basta vedere i progetti che ci sono ripartire col cemento, ripartire la Formula 1, ripartire con le grandi opere, ripartire, per chi conosce la situazione toscana, al nuovo aeroporto di Firenze, e chiudo. Ma non solo, distribuire la pioggia sulla struttura dell'economia standard, cioè sull'attuale sistema delle imprese, che sono distruttive dei territori, sono distruttive del lavoro, pensiamo alla precarietà dilagante. Credo che la grande operazione, io sono sempre stato dell'idea che serva una grande alleanza sociale per i beni comuni, per le economie trasformative, lo dicevamo fin dal Social Forum, facevamo proprio i seminari a livello anche internazionale per cercare di costruire queste reti. È l'unica strada. Dobbiamo provare a proporre un'alternativa credibile, coerente, perché abbiamo davanti anche un'occasione unica, perché questa quantità di soldi che arriva è immensa, è in grado di trasformare anche il volto delle nostre regioni e sarà usata per peggiorarla, sarà usata nella vecchia direzione. Se riusciamo a costruire alleanze, a far sentire la nostra voce, la nostra forza, per dire che bisogna andare esattamente all'opposto, rafforzando i beni comuni, le economie trasformative, con progetti appunto, ripeto, seri, che hanno in mente l'alternativa che è l'unica in grado di farci vivere meglio nel pianeta, relazionalmente fra noi, ricostruendo un equilibrio con la natura. Questa può essere la strada, però dobbiamo unirci e provare, ognuno dove è, ognuno nello spazio in cui è, nel movimento, nel gruppo in cui è, a far capire che dobbiamo assolutamente usare questa opportunità per fare una svolta radicale, per cambiare radicalmente il sistema, altrimenti andremo a sbattere, come ci ricordano tutti i movimenti a partire dai Fridays for Future. Intanto invito Nicola ad avvicinarsi, mi ha promesso che durerà un minuto. No, lo dico alle persone che già stanno andando verso la cucina. Tra l'altro, esatto, noi quest'anno abbiamo un programma che prevede l'intervento di un ospite esterno, anzi due, dopo pranzo, quindi ci conviene non slittare troppo con i tempi. Dopo, magari, dopo, quando finiamo la plenaria, annunciamo meglio anche questa sessione. Va bene. Devi attivare tu? Sì, ok. No, volevo solo augurarvi buon appetito. Hai visto che... No, io volevo un po', visto che andiamo a mangiare, complicare le cose, così si digerisce meglio. Sul tema, a un minuto uno schiaffo. E, no, sul tema delle alleanze e delle convergenze. Vorrei tornare su questo perché credo che avere le idee chiare su, o più o meno chiarisse le idee prima del lavoro dei tavoli, ci faccia bene, perché chiunque qui è già passato per diversi tentativi di convergenze, di alleanze, perché queste cose non diventino derive o scontri frontali, noi dobbiamo capire qual è la misura che ci fa stare insieme. Siamo a un anno e mezzo dalla costituzione di questa rete e noi dobbiamo cercare di capire quando ci fa bene una convergenza, quando ci fa bene un'alleanza, cosa deve accadere perché sia un processo autentico. E io, dalla mia esperienza personale, posso dire, se mi sbaglio gli altri mi correggeranno, dall'esperienza di questa rete, fa bene allearsi, fa bene entrare in relazione quando questa relazione produce effetti sulla mia quotidianità, sulla mia intimità. Quando l'incontro con l'altra realtà ha prodotto una trasformazione nel mio modo di fare politica, nel mio modo di stare nello spazio, nel mio modo di relazionarmi agli altri. Quando le alleanze producono, ma come le relazioni nella vita di tutti i giorni, si esce da una relazione uguale a se stessi, vuol dire che si è fallito. Allora la domanda che io farei, e il punto da cui partirei, è, ad esempio, l'incontro con l'ecologia politica, come cambia il nostro modo di stare ecologicamente nello spazio? Gestione dei rifiuti, le cucine, rete alimentare, i mercatini, eccetera, eccetera. Cioè, come questo modifica radicalmente la nostra relazione con la comunità della Terra, che non è una comunità abitata solo da noi umani, è la comunità dei vegetali, è la comunità dei vermi, dei batteri, degli enzimi, dei metalli pesanti, di tutta quella ricca comunità che permette quella trasformazione e metamorfosi costante. L'incontro col femminismo non può essere una somma, beni comuni più femminismo. Cosa producono i femminismi nelle nostre pratiche? Di cura, ad esempio. Come mettono in crisi la nostra relazione, specie quando parliamo di economia, tra livello della riproduzione e livello della produzione? Quanti spazi che hanno aperto la via alle economie, ai redditi, alla produzione di reddito nei propri spazi, hanno dovuto intensificare quel lavoro gratuito di riproduzione che permette agli spazi di restare aperti, di tenerli puliti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, noi dovremmo dire, perfetto, questa alleanza con i femminismi, come si declina e quali effetti produce nella nostra quotidiana lotta? Cosa produce nel nostro intimo sentire gli altri? Se non avviene questo, l'alleanza è infruttuosa. Avremo un'altra piattaforma di istanze da portare, le leggi, l'iniziativa popolare, le battaglie. Sommiamo le piazze, stiamo sommando. Noi abbiamo bisogno non di sommare, ma di trasformare. Innanzitutto trasformare la nostra istituzione, le nostre istituzioni interiori. Cioè dobbiamo produrre quell'effetto empatico che ci rende purtroppo estranei anche nella lotta. E lo dico da questa parte del fronte di lotta, quella cosiddetta sinistra. Se noi usciamo sempre peggio di prima, lo dico, sto generalizzando, non è vero, qua usciamo sempre meglio di prima, ci sarà un problema, perché nessuno è disposto a mettersi radicalmente in discussione. Questo è il punto. Allora io credo che il terreno pratico, rivoluzionario, dei beni comuni, quello che è successo in quest'anno e mezzo, che noi ci siamo contaminati, cioè nessuno di noi è uscito indenne da questo incontro, ci siamo trasformati nel modo in cui pensavamo gli strumenti di lotta, nel modo in cui agivamo in conflitto tra di noi. Allora se avviene questo, stiamo facendo un'alleanza sana. La terra è ricca, gli elementi che producono e la rendono fertile funzionano. Se invece non avviene questo, se non teniamo l'equilibrio tra le varie comunità che stiamo evocando, c'è la desertificazione, c'è nulla che avanza, come dicono tanti. Allora prendo in prestito, per chiudere e augurarci a tutti buon appetito e una buona convivialità, prendo in prestito un passo dalla letteratura, Cesare Pavese. Cesare Pavese, quando parla di relazioni, dice una cosa molto bella: fin dove bisogna spingersi quando si entra in relazione? Quanti amici, quanti amori, quanti nemici, quante persone da odiare? E lui usa una formula molto bella: finché ci trema il cuore. Io credo che se noi ci spingiamo nell'alleanza finché ci trema il cuore, cioè fin quando siamo disposti a sentire quella trasformazione interna, stiamo sulla via giusta. Allora domandiamoci, lo diceva prima il compagno intervenuto, siamo a ridosso dell'autunno e molto probabilmente la follia collettiva di gestione della pandemia ci porterà a chiusure. Come reagiamo a fronte delle nuove alleanze che stiamo tessendo? Che tipo di economia, che tipo di rapporto con la terra, che tipo di relazione tra generi, che rapporto tra produzione e riproduzione? Questo lo possiamo misurare. Lo possiamo misurare da adesso, da come mangeremo, da come lasceremo questo spazio. Se non c'è questo, se tutte queste alleanze non diventano tangibili, stiamo parlando di nulla. Grazie, buon appetito. C'era. Aspettate un attimo. No, c'è un ultimo intervento. Mi dispiace. È così? No, aspetta, tu non sei l'ultimo intervento, tu sei la conclusione, era Mattia l'ultimo intervento. Però davvero, teniamoci davvero nel minuto. Nicola, proprio pessimo, ha fatto 5 minuti. Stava per prendere davvero lo schiaffo. E dopo sì, il tavolo di patriarcalizzazione ci fa una piccola comunicazione finale. Piccolissima. Prova. Ciao a tutte e tutti, io sono Mattia e vengo da Massa Carrara e sarò veramente breve perché tante cose sono state dette e non abbiamo più di tanto un contributo da portare in questa iniziativa rispetto al percorso che stiamo facendo, che è un percorso giovane che si articola da pochi mesi e cerca di mettere al centro l'opposizione al modello estrattivo che si sviluppa sul territorio appunto apuano, di cui le cave di marmo sono solo lo specchio più evidente. Il nostro ragionamento parte dall'approccio dell'ecologia politica, che invece cerca di mettere al centro l'estrattivismo in tutte le forme che poi si articolano nell'estrazione di valore da corpi, da territori, e condivido appunto tutto quello che è stato detto in termini di alleanze trasformative anche per il nostro percorso, che appunto tra l'altro è un percorso aperto in cui non c'è un soggetto reale centrale, ma c'è una convergenza di intenti sul territorio e che parte da molto largo, nel senso che abbiamo bisogno sul territorio di decostruire prima di tutto la mitologia che lega ancora la produzione di ricchezza, l'estrazione di marmo, che il marmo produce lavoro, tutta questo falso mito che è il nostro primo obiettivo. L'alternativa, la costruzione di alternativa parte in un momento in cui da oggi anche riuscire a tessere delle relazioni su concetti di cura, su concetti di beni comuni è quello che noi tendiamo a raggiungere, ma al momento appunto siamo in una fase di costruzione di un'opposizione concreta e reale, radicale al modello estrattivo. Quindi prima di tutto appunto vi ringrazio e spero che questo incontro attraverso i tavoli, attraverso le reti che riusciremo a tessere sarà fruttuoso per noi anche in questa direzione, e chiudo se mi è permesso con una piccola marchetta, perché il 24 di ottobre faremo una manifestazione nazionale, per cui come oggi qui nel prossimo mese gireremo un po' tutta Italia, in particolare la Toscana ma anche fuori dalla Toscana, per lanciare questa manifestazione, cercando di spiegare appunto i nostri obiettivi in maniera chiara e cercando di appunto di far capire che è un percorso a lungo termine e che non abbiamo paura di affrontarlo con la radicalità necessaria. Quindi in giornata avremo modo di magari di parlarne, c'è il sito internet che è www.atamanta.wordpress.com, non vi dimenticate la H tra la prima T di Atamanta e il resto, e nulla, la pagina Facebook è stata lanciata ieri, attraverso quello le comunicazioni più immediate saranno subito messe lì e quindi c'è modo di seguirci, e vi ringrazio di nuovo per questa occasione. Grazie, le marchette ci fanno sempre più che piacere, perché occasioni per continuare questi discorsi. Stiamo finendo, siamo alle comunicazioni di servizio, intanto che si fa l'incellofanamento di Angela. Volevo ricordarvi che quest'anno abbiamo allestito, anzi hanno, non io personalmente, allestito una serie di bacheche qua dentro per raccogliere un po' pensieri sparsi che ci sono venuti durante il pranzo, durante gli interventi, eccetera. Quindi si possono lasciare là ed è aggiornato in tempo reale con un Jamboard online di cui sempre si trova il link sull'evento Facebook. Vi ricordo sempre che dopo pranzo, a questo punto credo che sarà un po' ritardato, tipo verso le 3:15, ci sarà il digestivo Floss, dove si introdurrà un po' lo strumento che stiamo usando, MeetCop, ma anche in generale alcuni punti che sono stati accennati adesso. E tu hai finito in cellofanare, quindi passo la parola ad Angela per l'annuncio. Chi deve ancora prendere il cedolino per il pranzo, vada al banchino in fondo. Bene, allora ciao a tutte e tutti, sono Angela e stamattina dovevamo iniziare con il percorso della depatriarcalizzazione iniziando dal corpo, abbiamo avuto un po' di problemi quindi lo sposteremo un po' alla sera e vorremmo solo dirvi delle cose. Collegandomi a quello che diceva Nicola, il gruppo, il tavolo della depatriarcalizzazione della politica vuole lavorare giustamente sulla pratica, messa in pratica dei principi transfemministi dentro delle nostre organizzazioni, come che ci curiamo quotidianamente, come ci relazioniamo, e ne lavoreremo più sia stasera nella festa, sia domani nel laboratorio, e abbiamo già avuto iniziato questo percorso dal primo incontro nazionale in cui abbiamo avuto il tavolo di fare comunità e poi ne abbiamo ancora lavorato, ma volevo solo velocemente dire che vi proporremo giustamente, come durante la pandemia abbiamo lavorato su questo libricino che si chiama Anticorpi Solidali, come riprendiamoci contatto, e l'obiettivo era creare alcuni spunti perché le realtà parlassero e riflettessero su quello che è il virus, su quello che è incontrarci, curarci, e prendere cura delle diverse sensibilità, e abbiamo proposto alcuni strumenti per mettere in pratica insieme questi processi di cura collettiva. Allora qui vorremmo proporvi uno degli strumenti che abbiamo proposto, basandoci su l'uso dei fazzoletti che si usavano tipo negli anni 70 negli ambienti non eterosessuali per codificare il tipo di desiderio sessuale, così ci possiamo incontrare in una maniera più facile, noi abbiamo detto proponiamo adesso anche questa modalità del consenso nei tempi del coronavirus, per cui proponiamo di usare questi braccialetti con dei colori codificati, quindi per esempio il rosso è non voglio avere contatto fisico. Non voglio che tu mi chieda perché, io semplicemente non voglio avere contatto fisico, e questo si unisce, è importante che lo mettiamo insieme, poi la festa, no? Cos'è il consenso nelle nostre vite, nelle nostre relazioni, ne lavoriamo anche più domani. E il secondo colore è l'azzurro, e vuol dire sono propensa a voler avere abbracci, contatto fisico, chiedimi. E il terzo colore, che è il verde, vuol dire non mi chiedere, ti sto dando il consenso per avere un contatto fisico. E quindi noi lasceremo... Cos'è il nero? Ah, ci manca un po' di rosso, per cui rosso e nero sono non voglio avere contatto fisico. Quindi lasceremo sia la come si dice? La leggenda, scusate, sia i nastri qui nella panchina qua dentro, e quindi vi proponiamo di iniziare a, cioè, di usarle se vogliamo lavorare così, come dicevi tu, per curare le nostre diverse sensibilità. E poi vi propongo un segno, perché vorremmo anche lavorare su linguaggi diversi e non per forza tutti verbali, ed è questo. Per cui nei momenti in cui siamo tante persone, dovremo radunarci e ascoltare a volte comunicazioni di servizio, quel che sia, quando una persona fa così, vi proponiamo di farlo tutte, tutti, tutto insieme, e stare in silenzio e ascoltare chi vorrà prendere la parola. Per cui si alza il braccio e poi tutte le persone le alziamo in silenzio. E proviamo questo e poi ne elaboriamo anche domani riflettendo è più bello che ci dicano venite o... questa altra maniera per esempio può funzionare o altre, per cui grazie, buon pranzo e basta. Bene. Grazie.